accorgo che storpia di nuovo e non ci si comporta in una certa maniera, due chiacchiere senza Chalamet nuda, faccio come ho fatto prima, 4 anni che non entravo, sarà definitiva che devo cubire l'antenna. Sì, ma io dico questo qua, cioè per colpa di una persona ci devono piangere gli altri, nel senso uno fa piacere a fare un questo con te e tu per colpa di qualcuno non entri più e io non posso più parlare con Claudio, perché? Cioè perché Claudio gli hanno rotto le palle, ma se ignorano quella persona, capito? Se uno ha le palle e viene faccia in faccia e viene, invece no. E per carità, per me sono tutti qua, ancora qua, c'è delle persone, quindi non me ne frega più niente, ma uno se ha problemi viene e bussa la porta e mi trova sempre, non c'è problema, capito? Io non rompo le barre a nessuno, ma chi me ne rompa a me poi mi trova. Idem con le patate, e tu mi conosci molto bene, quindi è quello che io non ho mai sopportato, quando mi riferivano a suo tempo, adesso chiaramente non più, ma mi riferivano a suo tempo baggianate, cose inesistenti, cose che non attaccavano da nessuna parte, capito? Andavano in faccia, se è un problema viene a dirmelo, con te c'è stato, mi sembra, un disguido di una cosa che ti avevo letto, che tu sei andato a casa di quella, cosa gli ho fatto? Dai, dove ho detto, ma tu sei sicuro di questo? Ma come me l'hanno detto? Ok, io ti dimostro che non è così, te l'ho dimostrato, ma ci si parla, ci si confronta, a me gli ti guarda qua, gli taglietti di Aruaracchino altra volta, e da voi non si sa difendere, nel senso anche personalmente, perché prima di affrontare il sistema, no? Che esiste, quelle sono persone che a me non mi interessano più. Io ripeto qua, tu quando mi hai chiamato io sono salito, ho detto, mi ricordo quel giorno particolare che stavo portando il pane Emanuele, perché io ho una memoria che la sedia di ferro, e tu ci vuoi dire che Emanuele, no, sto salendo solo, non c'è problema, cioè sono cose che tu hai sentito di me, giustamente io sono venuto e abbiamo chiarito quello che dobbiamo chiarire, capito? Quindi c'è un tipo che io sono il primo che scappo subito da una persona tu per tu, perché ripeto, a me molte cose che sento poi, cioè, non vuoi fare il nome, ma poi la fettina ti scappa in cesso, basta, perché io devo avere un discrizio con un amico per colpa di questo qua che mette chiacchiere, quello e quell'altro, per carità, è tutto il cerimento. E io niente, ho staccato anche il baracchino, anche per motivi di lavoro personale, diciamo. Io sono stato la terra 4 mesi, non entravo più, poi sono entrato un pochettino, ma qua c'era attaccato d'ora, un troppo c'era vinto, no. A me queste cose, mi sono andato anche persona davanti a questo qua e poi niente, si è comportato male, veramente. Mi ignorava per parlare, quindi mi dà fastidio ancora di più. Alla fine e poi insomma, vabbè, non voglio prendere discorso perché anche è antipatico. Persone, posso dire solo una cosa, non hanno le sfere sotto, chi si sia, siete persone che si sono comportati male con me, e questo mi dà molto fastidio, allora ho detto, ignoro le persone, non le cerco più, non me ne frega niente, e sto più bene, anche mi devo avvelenare il sangue con le persone che non meritano niente. Ma fate così, vabbè, a me non mi interessa più niente, ti ripeto, io vivo la mia vita, grazie a Dio, bene, tranquillo, la mia famiglia, non mi interessa più partecipare a niente nel baracchino, ma assolutamente. Io ho una mia greffa di radiobatteri che sono veramente persone a modo, persone corrette, educate, persone grandi, e ce la vedono bene. Ci confrontiamo, per carità, però sto benissimo, la mia decisione l'ho presa. Qua ci sono quelle persone che mi sono ancora vicine, qualcuno, capito, ci sentiamo anche telefonicamente, a vedere mi vedo poco con nessuno, perché non, però ci sentiamo, e quindi ho deciso, detto, ma visto che ce l'ho, ogni tanto mi faccio sentire, io che non sono voluto di attaccare la latina, ma ogni tanto mi faccio sentire, fa piacere sentire le vecchie persone, ma nel momento in cui ti ripeto, ribadisco, io sento, ma allora, ciao a tutti, arrivederci, è buon viaggio, capito? Poi più ricacco direttamente l'antenna e mi metto quella amatoriale diretta, ma lo gli dice prendi 11 perché li fa anche bene. Ma ti ripeto, la volta in cui vi gioca Gini, io non entro più, si possono scordare anche di esistere, non ha funzionato, anche perché ho avuto delle richieste da qualche amico, entra ogni tanto, fatti sentire, ho manco molti massoni, però se si comportano bene, ti ripeto, l'inverno è vicino, magari due chiacchiere si possono anche fare, ma se qualcuno si comporta male, non me la fu, non lo voglio che ti cioè spiego le frette, ma vado da altre parti. Ma io mica devo staccare il tutto, non entro più per colpa di qualche persona, lo ignoro e basta. Cioè perché poi se ne gode quello gli dice, mi ha giocato con Giaga, lui, ma se non mi conoscerei allora. Manuele, sei ancora vivo? Sì, lo stai mangiando? No, sto mangiando la luce dell'acquario. Sì, tu ci mangi, io ti vedo a te, mi stai affettando. No, sto preparando solo. Lui se vede Manuele qua, è vedo piazzato lì, adesso altro che dimagrendo. Ma voglio dire, ma c'era quello che avevo visto in servizio qua a Sassari, non era così grasso quanto di turno, stava bene, di nuovo ripreso. Ma guarda, mi ha mandato un tempo fa una foto sua che era una baghetta che era minimo 50 cm per 20, non di quanto. Certo, 50 per 20 ma non sa con gli Luca. Tutta in bottiglia a mare ma niente, picca. Poi dice, sta dimagrendo di cicchia, dimagrendo, ma cosa? Se lo vede vedo un po' fottello qui. Manuele. Dai, non sono così grasso, che sono in forma. No, non sei grasso, sei cicciotto. 60 kg sono grasso. Per gamba, sei cicciobello. Tanto Manuele, ma dove sei diventato tondo? No, quadrato sono diventato, non tondo. Ha detto che quadrato è diventato. Pensa che Manuele non c'ha più le maniglie dell'amore. Ah, le maniglie antipanico. Ah, Lucio, mi sei antipanico. Insomma, la ci muoce la propria romana è andata in patta io. Già, da me, bel figlioccio che c'ho, questo me lo posso anche mandare. Che Manuele ce li uno, tutti gli altri sono nessuno. Cosa l'hai, crisimato? Scappa. Bene. Devo andare. E poi mai, cioè, quando siamo partiti che l'ho convinto a operarsi, il dottore che va via, dopo la carità, no, non ti operare, penso ti passa. Adesso, Manuele, mandala che tuo paese il ciabo dei dottori, cosa, la sidrotele quando è finita. Grazie a Dio, mi ha seguito, siamo partiti insieme, e adesso va meglio. Perché vuol dire che l'hai convinto bene, vuol dire che va bene. Sai, capo, l'ho fatto per il suo bene e anche per il mio bene, perché anche io mi sono operato. E poi Manuele mi ha fatto impagliare, noi eravamo sull'autobus, Manuele non c'è da farsi per la cosa, mi amico qua mi piace, quando mi piace, ma scuro ci scendiamo qua, un chilometro di mezzo a piedi mi ha fatto qua. Ah, ma avete dimagrito? Sì, appena operato, lui ma allora te la metti? tutto bene di dolore con le valigie in mano. Sicuro la valigia tiro di nuovo. E pure fa vedere con Dixon Negro Pussinuzzo. Devi pregare che sono comparato, ca. Ha rifirmato lo treno che non voleva pagare un biglietto, molto Pussinuzzo di Vega. Ma se non ero operato, a calci culo avrei conto pure, ca. Per carità. E infatti ero per contente, ca. Povero contro l'ore, ca. Avanti, cra. Perché voi siete... Ah, è vero che eravate tornati in treno, no? Da Ravenna poi ho preso il treno per andare, prima ho fatto Milano. A Milano siamo stati una notte, lì abbiamo dormito, poi domani siamo ripartiti. No, una volta siamo andati, sì. In aereo siamo tornati dopo. Ma senti, tre giri dovevamo fare forse in treno. E anche l'ora di vuoto in treno. Quante ore ci avete messo in treno? In treno ci ho messo quello che ci ha messo, perché sono andato a Ravenna e poi Ravenna prendeva il treno e per andare a Milano, capito? Ma noi avevamo preso un treno veloce, se non vado errato. Sì, un treno veloce, sì. E qual era? E poi Frecciarossa, mi sembra. Frecciarossa, Io la sono andato, l'ho preso Italo, cazzo, un camminato. Però pari a freddo lo treno. 144 km/h. Quello cammina un bel. Sì, bello veramente. Io posso dire solo questo, sono contento di essermi operato. Ho fatto la cosa più bella del mondo. Mio fratello ha detto, certo che ha avuto coraggio per partire da solo operato. E oggi rimanio, continua a luce a darsi di rotelle, ma non tenate. Sì, Vettore. Ah, non eri tu che hai sentito? No, ho sentito anche io. Avanti, clap. Non so, non penso che sia Claudio, è più basso il segnale. Sento una portantina. Radio, se sei tu, due colpi. Non stai uscendo in radio e sei una tappata. Niente, fare una piccola branchetta. Cambia apparato, cambia. Se sta andando male quello lì. E allora, Manuel. Adesso sei uscito bene. Ho il microfono vecchio. Possiamo controllarlo di nuovo, cazzo. E facciamo niente voce. Ehi, ti ho messo il microfono. Anni, fermo. Manuel. Sì, attori. Cosa sta vicenda? Sono qua in ascolto, che mi sto ascoltando, dai, che sto preparando un po' di spaghetti alle vongole con gamberini. Tony, mi mandi a fumare? Aspetta, mi sta parlando Manuele, che adesso corpo durato. Sta preparando i spaghetti alle vongole, Manuele, sono come da mangiare. Poi di secondo un po' di cose ho fatto, di... Ma posso andare a fumare, sì? Certo che puoi andare, perché la puoi andare. Allora, già torno subito, mangiatevi al vongolo. Scappa, fa cosa fa. Manuel, pronto a mangiare? Sì, stiamo preparando. Prepara un bel di più. Se vuoi tenere voi la miscia, un chilo a macchia. E tu chi la mangio io da solo? No, tu sei troppo ingorda allora. Poi vuoi dimagrire. Tu c'è quel frittantino bianco, ci sente bene. Sì, quello già mi piace perché l'ho assaggiato. Che marca è da pure me la metto più. Basta alla cosa, l'MD l'ho preso. Frittantino amabile. Frittantino amabile, piano. Sì, era buono veramente, però. Io a bivino, guarda. Io a MD avevo preso un vino, non mi ricordo come si chiama. Ce l'ho nella foto, guarda, devo cercarlo. Ma era un simbolo, lui non c'è più. Non l'hanno più messo, ma però sempre 3-4 bottiglie. Ma già ne mettono, sì, già ce ne mettono. Tu basta guardare da un litro e mezzo del boccione. C'è scritto amabile. Verduzzo, mi sembra che c'è scritto, Verduzzo amabile. Io mi ricordo, Montalvo Gentile, un affare del genere, rosso, bottiglia da litro. Sì, c'è anche rosso. Ma quello che c'è tu, il bianco, è buonissimo. Dai, perché io quando mangio da casa tua, ho fatto quel vinello, sembra buono veramente, a me mica impare bucata a me blu. Quello è buono fresco, d'estate, la già può coltivare, può dire sì. Già ti credo. È tutta un'altra cosa. Ma si stanno volando il cielo. Oh, ha messo pioggia qua in Sardegna stasera, a Sassari. E pioggia il luogo, vento, vento. Io devo anche andare stesso presto e ci devo uscire alle 6:30 per trovare il parcheggio, perché domani devo fare le analisi. Guarda che sta piovendo. Anche io sono andato presto alle 6, ero già lì. Perché questa è la prima 6:30, sei e mezza, sì. Ciao Tore, così sta già piovendo? Se ti puoi permetti a chi c'ami, già son piccolo, va bene, son piccolo. Cazzo, non ti ha già sorpassato. Cazzo, vedi, Tore, cazzo, sono piccolino e se ne approfitta. Ma marchino però, ma si è venuto più lento. Sono. C'è anche il Tore squalo, Che sei tu? Tu manca un ascolto un attimo. Ok, Manuel. Tore, Claudio. Sì, buonasera a tutti quanti. Anche a Claudio. A me sente, Getto? Che ti sento? Sì che ti sento, abbastanza bene. Sto provando un vecchio barattino anni 70. sto rispolverando un pochino tutti questi baracchini che c'ho vecchi. Invece funziona, e ci butto il baby più 5, quello che funziona. Ah, ti dico che c'è quel trattendivo, non è dagli anni 70. Questo è un airbag 4820, che mi aveva regalato un amico. E funziona sempre, ogni volta che lo prendo, l'attacco, e do sempre funzionare. Purtroppo ci dobbiamo adattare a questi. No, noi siamo detto che scendava. No, portate 10 a voi, per fare la chiacchiera più che sufficiente, se non mi comodo, se non mi sentite, e faccio col grande, col capo. Sì, a voi se ti sento io, certo. Se ne ho 10 a me. Io ti sento sempre qua. Sì, tu ce ne ho 20, tu ce ne ho schioppo, torre un po' più giù di te. Tu sei dietro la mia collinetta, se non vai alla già collinetta ci saremmo visti anche con le luci. Quello senza ombra di dubbio. Questa c'è una zona fantastica, molto bella quella zona. Io l'ho persa, ti ricordo che ne parlai tempo fa, tanti anni fa. L'ho persa proprio per colpa di un amico tuo, di dottor Barago. Allora, io stavo trattando quella zona perché mi piace molto. Molto alta, è bella, è visiva perché vedi tutto, capito? Ma mamma si è in contatto con un suo amico che aveva delle cose interessanti lì. E invece quando sono andato a vederla era un Ruger, è stato con un Ruger. Io questo l'ho fatto dall'inizio, capito? Io qua ho visto le fondazioni, coltivata proprio da zero. Ci ho messo anni, però l'ho vista fare. Chi sarà proprio lui? Una casa di campagna abbandonata. Che te lo sa un paese, una casa di campagna abbandonata. Io da qua, Clark, come sono fuori dal cancelletto, vedo senza di due palazzi alti. Non so, lì c'aveva la casa Danilo Romano, dove c'è, hai visto dove si gira, dove c'è proprio San Camillo, l'ospedale, no? Si gira, prima dell'ospedale si gira a destra, dove c'è la Madonnina lì. Cazzo, ma ci avevano vista la notte, Tonino mio, tutto illuminato. Maria Mazzidà, è un'altra città sembrava. E cazzo, ma se mi sono chiamato, è finito. Dove squalo? Bello. Sono qua, sto spolverando. Io poco fa ma sono venuto. 3 anni che non mi servo inutile queste cose. Allora, a me già funziona tutto. È tutto funzionante. Sì, anche qua già le vecchie radio già funzionano, non è che mi possono andare, però non le sto più usando come le usavo prima, capito? Eccomi a me, rientrato. Bene, capito Tony? Io quando passavo a andare a lavoro, perché c'avevo anche la zona di Osio, Santa Vittoria, tutte quelle zone lì quando lavoravo, passavo tutti i giorni e gli ho visto praticamente in costruzione. Mi piaceva questa zona, quindi invece tanto va Vittorio, mi ha mandato da questo qui, in quella zona dove abiti tu, cazzo era un mattinaccio io. No, io sì, sono andato lì per il San Camillo, dove c'era stato a gira a destra, ho girato un po' quella zona, sì, c'è un bel panorama quella zona lì. Quindi se io ero in quella zona all'interno, lui ci poteva proprio salutare. Peccato, a me la mia grande, se no è lui, ci voleva un patrimonio per metterla a posto, e allora sono venuto qua. Si sta bene, non è che si sta male, ci sono alti e bassi, si è un po' distante, insomma, di fare tutte le cose in macchina, ma alla fine ci siamo abituati. Comunque c'è il pro e il contro, diciamo. Io sto troppo bene in campagna, però c'è il pro perché vorrei, diciamo, ogni cosa deve andare a Sassa da una parte all'altra, capito? Quindi è un macello, è troppo nafta, è guida che d'altro. Io esco 4-5 volte al giorno, neanche sì, a volte mi scoccia. È bello perché non hai problemi, sei arrivato davanti al cancello, scarichi la roba, sei piano terra, sei tutto tuo, sei tranquillo, nessuno ti rompe le palle, è tutta un'altra cosa. Però avevo voglia di stare in città, toccare meno macchina, capito qua, a volte lo fa e lo pensi. lasciato avanti. Uno perché voglio uscire almeno un'oretta, o un paio d'ore, insomma, esco così. E poi me rientro a casa non esco più, ma, però io sono molto più vicino a te, io sono a 2 chilometri, ho già fatto il centro ecologico, sono in via Carlo Felice, capito? Ho trovato i primi caffè lì al fornitore, poi scendo a Cris, se mi serve una sigaretta, no, faccio le cose normali, faccio la spesa, quasi per tutta la settimana, poi mancano sempre le strozzate, allora va bene, ma qui non mi pare a me. E io meno male che non fumo più, la bellezza di 10 anni che non fumo più, e sono tranquillo, se no esce voluto in ultimo, non fumavo, mamma mia, mi rammento che io ci metto 15 anni quanto fate conto. Quanto volte sono uscito di notte per prendere sigarette, avevo 2 o 3 sigarette, no, non mi basta, io devo avere un pacchetto sano, sennò ho 2 pacchetti, e uscivo di notte a prendere sigarette, per carità. Vabbè, amore, ci sì, sì. Certo che ci sono. Certo, non mi si fuggono. Cosa gli offendeva? È la gravità, ho visto che sei sempre muto, non fa vedere mai, fa vedere, anche tu dai. Voglio già dire racconto, barzellette. Anche le barzellette quando sono contate bene, fanno bene. Ma è dire che sta piovendo, qua non sta piovendo. No, sono uscito per pigliare la signora. Non so che si dove la vendeva, arrivo a Giosu, a Sant'Orsola, e mi è stato a piovigginare, a Anne per non bere. No, oh, qua non sta piovendo, ci ha controllato. Io ho controllato qua, non sta piovendo, c'ho tutto il pavimento fuori che è asciuttissimo. Tu o tu, vada a rumore le pantucci. Le ditene che fendeva i nomi, certo, se no te l'abbia detto. No, ma ci credo. A volte è successo che da me ha piovuto e sa se non stava piovendo. Quindi, adesso da te fendeva me, no? L'ha messo, ha messo che pioveva stasera. Sta iniziando. Sì, lo so, l'ho detto anche a Manuela che ha messo che pioveva stasera. Quindi, se devi fare, devi fare un bella che mi devi lavare la macchina. Sì, è valita base, in brutta buca. E beh, là, piove quelle zone, la disturbura. Manuela, ci sì. Sì, sto aspettando, vi ascolto. Ma da te piove? Dottore piove, qua non piove, la vicina pure lì c'è in faceva. Già sta piovigginando, ma cazzo piovendo, proprio piovigginando leggero, leggero, leggero. E qua niente, qua c'ho le troboccate, sono asciuttissime, nude, ma come ti dice qua? No, qua già sta mutinando, come si dice, proprio leggera, leggera, tranquillo. Ci avranno pure la fantuzzi. No, ma è per le budine a te. Allora, pure non sempre fa aperto. La nuova è fantuzzi. Allora, il prossimo, visto lo squalo. Chissà, non inizia a far più forti. Se no rimane, mi rimane ancora più brutta questa macchina. La salletta, fatta pigliare la bomba. Io ho tutte le comodità, vado a porta, apro il cancello, entro l'etro, ma basta con il bomba, asciu che andiamo. Ma è no, che ci tratti la bomba, non leva, se già manevi vigili subito. Ah, lo sì, vi prego, se vuoi dirmi, abitare in città. Io sono tranquillo, intanto anch'io mi sa con la macchina, con la pompa, la pressione, sopra il buio. Quindi, non è fantuzzi, no, che non ve ne è, si nata. Va bene, va bene. Andiamo bene, andiamo, no? L'unica cosa che devo fare è andare vicino a coso, a per lavarmela, a spendere 3 euro. Sì, vabbè, 3 euro, non è nulla, intanto mi... Cosa pensi che non rispenda 3 euro l'acqua? Capito, si attacca l'autoclave, entra tutto in funzione, quindi evito di... Anche quella volta vado lì via Catalochino, da Claudio Patrone, pongo 1 euro, un gettone e me la lavo. Io c'ho un obietto vicino al cancello, fate conto. E quindi al cancello c'ho già la macchina davanti. 15 metri e pompa voglia. Lo so, ma io a volte per non stare a bagnare, entrare dentro con la macchina perché c'è l'erbetta, capito? Se no la rovini. Allungo la pompa, la lascio fuori, ce l'ho anch'io, c'ho lo spruzzino, c'ho tutto, l'ho lasciata fuori. Però a volte ma adesso non sa se è dentro lì a in via Catalocchino e la sciacquolì. Si può fare anche così. Vado io la mattina presto la sciacquo, perché ne vanno bei direttori, quindi anche l'acqua sporca sarà umidità, eccetera, insomma la sciacquo bene. Esce pulita, pulita la macchina, con la pressione, e le faccio tutto in giro delle ruote, poi la faccio tutto e lavo io. Se non arriva a mettere la fiamma a metà, bella pulita, tutto il detersivo, i ceti, tutto fai. Gappa gappa, ma tu c'hai il garage, tu, vero? Dottore! Dillo! Tu hai il garage? No, il magazzino c'ho. E si ruba di pieno pieno. Oh, Claudio, Claudio si è bocciato. E sarà andato pure a pigliarsi un po' godeva. Sarà contenti. Sì, sta iniziando a piovigginare e tutto. Quindi andiamo a passare un grosso. E già arrivederci. Ehi, c'è stato un periodo l'anno scorso che io sono passato più di un mese dalla casa di Claudio. Avevo parecchi impianti elettrici da fare nuovi in un certo posto. E luce fu, è tutto illuminato. Beh, e passavo un dia di passavo, un manzale trovavo via la sera. Infatti è così, purtroppo. Tu hanno preso il lavoro. Claudio. Luglia, viaggio 9, sono per bere. Poi abbiamo portato la bottiglietta vicino. Sì, così non sto sempre seduto e non mi alzo, almeno così faccio un movimento. Giusto, già vero anche quello. Per un mese, e mezzo sono passato davanti a casa tua, passavo ogni mattina, raga, e per la sera che ritornavo. Oh, qua vicino a casa? Sì, ma da oltre, più giù, qua la zampa. Non vivrà poco, l'anno scorso, minchia. Ormai mia figlia si è andata a casa sua. Ogni volta che dovevo andare al lavoro di mattina, che cazzo me lo portare alle 6 per svegliare la macchina, e se lo ghiaccio che fa di notte, ghiaccio il giardino tutto bianco, ghiacciato. E ci credo. Lì è una zona un pochettino in alto, quindi nell'intorno di alto deve fare un bel chimico. E avrei un po' di freddo, come il cacciuccio chimica. E lei era tutto messo male l'impianto, gli ho fatto l'impianto nuovo delle luci esterne, un bel lavoro nei corridoi, infatti poi è passata la commissione e fa santa meno male, perché se passava senza fare quel lavoro che l'ho fatto io, ma carità, i fili che ho tappato in terra, bagnato, le spine entrate nelle prese che c'erano qua vicino, fili nudi, ma fortuna di semo, li ho tutti eliminati, tutti, li ho messi alti un metro e mezzo da terra con l'interruttore bipolare e così accendevo le luci esterne e sono rimasti contenti. Ma qua gli impianti già sono ancora nuovi, ne ho aggiunto qualcuno, ho trovato pure nel giardino, ma niente di che, non c'è luce accesa la notte, basta, il resto già c'è tutta norma qua, e già in quel mio vicino c'è 6 anni mi fa, sì o 7, non lo so, e questa ancora non era finita, quella di sotto, quindi avrà 5 anni, 6 anni, non lo so. Quanto arriva forte al canale 11? Ma forte, ti giovedì mi sono attenti, mi stanno splatterando. E anche a me, dove resisti? Sono bassi, da me sono bassi, quindi non mi succede nulla. Bassi, cazzo che mi sto splatterando a me, ho visto 9,15, 9,20, addirittura metra un me a me. No, io ce li ho 2, 3 di segnale. E allora tu c'hai qualche problema, eppure sei in acqua dunque? Sono le 9, Tony, canale 9 sono. Ma io anche nelle 11 lo sento, fortissimo proprio. Ci sono anche le 9, lo metto in dubbio, ma con le luci è fortissimo proprio. Nel 9 e 3 ci sono, tutte e due. E Tony ci ascolta ben massimo. Ma ci ho messo l'attenuatore io. Cioè, è stata una democrazia. E non intendo un bel. Sanremo perdemo. Guarda, allora, dalla squadra che ci arriva 7,7,8, l'ho abbassato, alternato me con me, e arriva a Santiago 2, però lo sento lo stesso. Io qui c'ho un po' che finire, ma abbasso il vostro segnale, mi si gira le balle. Ah, senti, tanta volte è stata la amichissima, non hai idea di... A me quelle dall'11 mi stanno arrivando, 9 qualcosa mi stanno arrivando. No, più forte tu qua. Allora, te qua, ehi, ho girato l'11, cazzo, 9 dieci. Ma bisogna in mezzo pure gli spagnoli, mi. Di tutto, di tutto, di tutto di più. Ne arrigenderevano, ne sono arrigenderevano. Ma lascia ammazzare, che casino le stanno facendo, stiamo americani, cazzo, bello. Oh, anche io spengo un po' prima di cucina, c'ho questi occhi, per carità, non me lo sento più, sono stanco a stare seduto, non mi piace più. Ok, dai, vi ringrazio per il consiglio, Claudio, dottore, saluto agli amici, sono in ascolto, e io me ne vado un momento, vi preparo qualcosa per la cena. Ok, d'accordo, ci sentiamo, ne prendi Claudio, ciao di nuovo, stare bene. Ciao Tony, grazie a te per le due chiacchiere, una volta due minuti di controllo e poi vado anch'io a vedere cosa c'è da preparare, vai Tom. Sì, ciao Tony, buona cena e buona carica, ce la devi fare subito. No, la faccio tra mezz'ora, minimo un'ora, tranquillo, ok, ciao ciao. Ciao Tony, ciao ciao. Ciao Manuel. Ci sentiamo, ciao Tore, ciao Claudio, ciao, ti ascoltiamo. Ciao Manuel, ci metto qui, ciao. Ciao Manuel, ciao. Claudio, siamo rimasti a raggiungere. Se devi fare cosa, falla. E io rimango all'ascolto. Ehi, qua sono, sto dicendo. Stavo spolverando un po', c'è uno scaffale pieno di baracchini. Allora dico, gioco che funziona, quindi lo possiamo anche rimettere da parte, ne prendo un altro e provo a vedere. Così il vostro gli lascio la china, ma lascio una ventina, grazie che perché tutti nuovi, c'ho il sommer, sempre c'ho un sacco di barattini belli. Li facciamo andare, a Marco funziona, il gioco che funziona a Marco in una mondezza. No, io me ne ho un altro da... Le banche che da 4 watt che se 4 watt l'inter che lì si funziona anche con le con la macchina tu ce l'hai attaccata al viso, funziona anche così, oppure così a microfono attaccato con le cuffie. Solo gli piglia un bel disblatto il bimbo. Sì, ma infatti io sono abituato più con le baracchine, anche se sono distante, però quando c'è preparazione col baracchino ho senso, infatti uso sempre il K, il tempo ti ho capito. Però mi sono deciso di controllare tutti questi baracchini, ne ho anche base, c'ho il Galaxy anche, che è anni che non lo accendevo, l'ho già provato e funziona. Il Sommer, tanto il coso, di un sacco base, di un 4-5 base, questo invece è un baracchino particolare, però già funziona. No, di baracchini la giudice, di coso la giovinata in luce, quindi la uso solo per l'ascolto, qualche volta lo uso uno. Non mi piace in assaggio. Ascolta, il K ce l'hai sempre, sì? Sì, quello ce l'ho sempre. Quello lo sto usando come ricevitore. Vabbè, lo uso, farò andare ogni tanto. No, io sono sotto commutatore. Ho il commutatore d'antenna, commuto. Posso usare sia i baracchini che tutta la linea del K, capito? Quella la uso sempre, la uso in 10 metri a 28 MHz, capito? E poi adesso mi ho collegato sto baracchino, lo poniamo stacco e ne collego un altro. Va bene, dai, allora ti saluto anch'io, grazie delle due chiacchiere. e ci accoppiamo, ci sentiamo, lascio acceso anch'io, ancora, tanto non è per fare qualcosa in cucina. Ciao, stavi bene, buon fine serata. Sì, ok, grazie, alla fine serata, ci risentiamo alle prossime, ciao, tra. Ciao, ciao, ciao, ciao. Oi, ehi, dimmi, dimmi Fabrizio, sono qua. Vabbè, mi sembrava così alto il 27, o no? No, se non gridi va bene così, se gridi distorce. Se, come detto, se? Se gridi distorce. E la dita la abbasso un po'. Ma passata leggermente, come va? Vabbè, così è favola. Lasciala stare così. Ah, ci così, vabbè, questo stampa i documenti, devo andare a fare delle visite, sto cercando un po' di documentazione. Fai, già sono qua io, sono sul 10, nascosto.